Se tu, dopo aver amato invano, non vuoi più amar nessuno, perché dimentichi anche me. Se tu non vuoi più amar nessuno, vieni a stringere la mano che ti legava un giorno a me. Le lacrime che ho versato per te sono lacrime d'amore, perché t'amo, t'amo e t'amerò, perdutamente t'amerò, finché il mondo vita avrà, finché il sole luce avrà, finché vivrò. Solo per me, sempre, sempre.